This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Buon pomeriggio a tutti, anche questo pomeriggio in diretta su Radio Città del Capo. Questa è This Is Not an Exit. Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori. Siamo in compagnia di un ospite questo pomeriggio. L'ospite addirittura viene fuori da Bologna, che per noi insomma è una novità. Do il benvenuto a Gioiello, che ha scritto un libro su un personaggio che non interessava molto. Ci pensavamo da un po' di farci una puntata e addirittura mi ha portato il libro e ho detto: beh, a sto punto vieni in radio. Beh, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi. Tra l'altro hai un passato da radiofonico anche tu. Sì, ahimè sì, infatti ahimè, nel senso che trovarmi qui in mezzo tra cursori, e lettori CD eccetera, mi fa venire un po' di nostalgia, però vabbè, insomma, ormai ho deciso che non faccio più radio, quindi... Però fai libri e suoni? Faccio libri, suono, continuo a fare il ragazzino in effetti, perché non si smette. C'è un mio caro amico che mi dice sempre questa frase: non si smette, e io ci credo, perché nel senso, quando vedo vecchie rockstar consumate che stanno lì e tu dici: ma questo è miliardario, perché non sta a casa sul divano con le ciabatte? Perché non si smette? E anche Fausto Rossi, o Fausto, mi sa che non ha smesso mai. Non ha smesso mai, infatti ancora oggi incide dischi, ha smesso di farsi chiamare Fausto, usa il suo nome e cognome, che è Fausto Rossi, diciamolo, perché lui ci tiene, e non ha smesso. Diciamo che è uno che si prende i suoi tempi, però non ha smesso. È una cosa bella di cui parla il tuo libro, è che Fausto ha appunto attraversato qualcosa come 35 anni di storia della musica italiana. Sì, è uno che ha cominciato negli anni 70 e negli anni 10 del millennio successivo è ancora lì. È proprio in questo 1992, che è un periodo che ci interessa molto a noi di This Is Not an Exit, Fausto fa un cambio radicale. Intanto cambia, passa da Fausto a Fausto Rossi. Sì. E poi fa un disco che nessuno si aspetta. Thank you. Beh, parlavamo di Fausto Rossi, che viene da lontano, dal 1978, ed è una città che negli anni è cambiata, abbiamo accennato, viene da Milano, la Milano dell'asfalto che si scioglieva sotto le gomme in estate delle macchine, la Milano grigia di smog e di cemento armato ricostruito dal dopoguerra, ma insomma quella non è cambiata molto. Altre cose erano cambiate, alla fine degli anni 70 Milano era terrorismo, era polizia un po' ogni dove, gente che magari ascoltava la radio la mattina proprio perché per sentire chi avevano sparato quel giorno. E Fausto Rossi viene da una Milano anche di periferia, proletaria, che però riusciva ad ascoltare le sue cose, i suoi testi e a recepirli. Fausto Rossi nel 78 aveva dei dischi con dei singoli che finivano anche nel jukebox, dico bene? Sì, dici bene, anche se in realtà erano gli ascoltatori della radio, quelli che dici tu, ma anche perché le radio libere, diciamo, erano agli albori pure loro, perché avevano un paio d'anni di vita, quindi non era come adesso che c'era moltissima concorrenza, moltissima scelta e moltissima possibilità di ascoltare anche musica diversa. Fausto Rossi, a quell'epoca Fausto, aveva ottenuto un contratto con la CGD, quindi diciamo con la compagnia generale del disco, che significa all'epoca una delle più importanti case discografiche italiane, un concetto che oggi non c'è più, quello della casa discografica, all'epoca invece c'erano, e la CGD era una delle più importanti, nel senso che era quella che distribuiva la maggior parte dei prodotti pop italiani. Lui ottenne questo contratto e fece questo disco che si chiamava Suicidio. Solamente il titolo all'epoca faceva paura, perché se adesso un po' non ci si fa caso, perché siamo un po' più abituati a sentire anche cose estreme, eccetera, un disco che si chiama Suicidio già di per sé nel 78 aveva dei problemi a girare, tant'è che appunto Suicidio non fu proprio, non ebbe nessun tipo di promozione, la TV, Fausto non ci andò, cominciò ad andarci qualche anno dopo, e lui fece questo disco che traeva ispirazione dalla new wave, dal punk rock che si faceva strada in quegli anni in Inghilterra. Quindi c'era dentro il Bowie berlinese, c'era dentro gli Ultravox, c'erano i Peru Boo, questi gruppi che erano ascoltati, diciamo, dai giovani appassionati di musica, ma sicuramente non da chi ascolta la musica occasionalmente alla radio. E lui fece questo album che in realtà oggi è considerato un classico, ma all'epoca passò abbastanza inosservato, insomma. Nonostante l'utilizzo di un nome così bizzarro come Fausto, che all'epoca appunto qualcuno aveva cominciato, non riusciva a capire cos'era quell'apostrofo O, e pensavano che fosse uno zero, e quindi lo avevano associato a Renato Zero, non c'entrava nulla, sebbene anche Renato Zero in un certo senso fosse un provocatore in quegli anni lì, insomma, però non c'entrava niente. Cioè, le hanno provate un po' tutte, c'era un sacco di promozione stampa con immagini della copertina del disco con finti annunci di ricerca di persona, c'erano trovate Fausto con le scarpe gialle, apparivano sulle riviste specializzate, in realtà era una forma nuova di pubblicità, è stato un po' il nuovo che avanzava, una cosa che in quegli anni là le strategie di mercato non erano così, erano molto più all'acqua di rose, e anche perché non ce n'era bisogno, si faceva il disco, se vuoi vai a Sanremo, eventualmente fai il Festival Bar e poi ti facciamo fare i passaggi alla radio. Per lui, cioè da Fausto e altri di quel periodo lì, Gino De Liso per dirne uno, oppure i Crisma per dirne un altro, eccetera, cominciò a cambiare l'atteggiamento della discografia italiana, che comunque ci vedeva in questo ambiente qua, non stava semplicemente lì ferma e non ci capiva, come succede adesso. Adesso sono un pochettino più restii alle novità. E ad investire. Sì, in quel senso lì, cioè restiere novità, nel senso che non cacciano i soldi per fare produzioni di gente giovane e magari invece li spendono per fare le produzioni a tirar via, le chiamo io, nel senso che cioè, un tanto al chilo ci metti 5 minuti a fare un pezzo di Tiziano Ferro, lo fai e lo vendi. E da quella, per quell'aspetto lì un po' li capisco, nel senso che Tiziano Ferro vende, anche se fa un disco brutto non importa, e magari il gruppo giovane che ha un sacco di idee anche magari più interessanti di quelle di Tiziano Ferro, senza nulla togliere, rimangono nella... Quante notti ritornano accanto a me, vorrei prendere un volo e andarmene via, e sai che vorrei. Quante volte ho pensato alle mie follie, giochi d'ombra su altari di luce viva, per giungere a casa. Primavere inchiodate, spazzate via, ma questa voce su un disco che gira e gira, e non è neanche mia. 5 strade, 2 voci, chi avanza nel cortile, questo cuore. Passati a fissare il cielo, avrei potuto ammazzarti con una mano, avessi avuto un motivo. Questi rami che crescono senza un Dio, ma questa voce su un disco che gira e gira, neanche mia. 7 strade, 6 voci, chi avanza nel cortile, questo cuore. Siete sempre con noi qui a This is Not an Exit. Stiamo parlando di un personaggio molto particolare degli anni 80, che poi, come abbiamo detto, è ancora in attività, e nel 92 ha avuto un punto di svolta, probabilmente anche perché la Milano dove lui viveva e gli ascoltatori stessi erano cambiati, appunto si era passati dalle prime radio libere da un certo tipo di ascolto, di produrre da un certo tipo di pubblico agli anni scintillanti dove Milano era la famosa capitale morale, la Milano da bere in segni luminose, si era passati dal male a Panorama e poi si arriva a questi anni 90 con Tangentopoli, Cuore, e qualcosa era cambiato. Fausto rimase fermo per parecchi anni e nel 92 se ne esce con questo disco completamente diverso da quello che aveva fatto prima. Il disco infatti si chiama Cambiano le cose, già la copertina è programmatica, c'è un suo vecchio vinile, la copertina di un suo vecchio vinile nella copertina del nuovo disco, più dei manuali di informatica, e uno dei manuali è il manuale di Max. Max è un software creato nel 74, 40 anni fa, serviva per programmare le prime macchine automatiche per fare musica, i primi sintetizzatori programmabili in pratica, e non so quanti dischi in Italia fossero stati composti con Max fino al 1992. Credo anno che di sia uscita. Il primo, sì. Credo che Cambiano le cose sia il primo disco italiano, se non altro, realizzato esclusivamente con Max. Ed poi è tra strano. L'altro c'è anche un'altra cosa da dire di pioneristico che riguarda Fausto Rossi. Nel pezzo abbiamo sentito adesso, che era Cinque strade dell'album dell'82, che si chiama semplicemente Fausto, c'è il Fairlight, ed è il primo disco italiano in cui è usato il Fairlight, e lo suona Roberto Colombo. Per noi ignoranti? Diciamo che il Fairlight è l'antesignano del campionatore. Cioè tipo un Fairlight costava una cosa tipo 15 milioni e se quando c'è stato il boom dell'organo Hammond gli studi di registrazione ce lo compravano perché se la cavavano con poco, il Fairlight non ce l'aveva nessuno. Ce l'avevano gli studi della CGD perché l'avevano comprato, perché Peter Gabriel aveva fatto un disco e una serie di filmati che chi ha la mia età se li ricorderà, che giravano anche per le TV italiane, in cui lui illustrava le potenzialità di questo meraviglioso strumento, in cui lui ci campionava il suono degli uccellini e poi tu lo sentivi tale quale pigiando un tasto di una tastiera, e era diventata una cosa che tutti volevano avere nei dischi. Per cui lui poi alla fine chiamò Roberto Colombo, che è un famosissimo produttore che ha lavorato prima con la PFM e poi con una serie di altri musicisti italiani, a suonare il Fairlight, ed è il primo disco, questo che abbiamo sentito adesso, in cui c'è un Fairlight in un disco italiano. Peraltro disco che, apro una parentesi, non è mai uscito in CD, perché era il disco che lui aveva fatto dopo che ha cambiato casa discografica, era passato alla Dischi Ricordi. La Dischi Ricordi poi dopo, cioè, sono successe delle cose per cui adesso non esiste più, eccetera eccetera. Ora il catalogo Ricordi credo che sia di proprietà della Warner e probabilmente non sapevano nemmeno di averlo sto disco, e adesso sta uscendo si parla entro la fine dell'anno, sta uscendo finalmente la prima stampa in CD di questo album, ed esce per una piccola etichetta giapponese che si chiama On Record Japan. Sarà distribuito dall'Audio Globe in Italia, quindi si troverà, insomma, lo sanno già tutti perché è un disco talmente di culto che la notizia, già si cominciano a vedere informazioni di questo tipo nella rete. Nel mio libro pure c'è scritto già il numero di catalogo perché me l'hanno già consegnato, quindi è in arrivo e quindi ci sarà anche questo. Tornando a Cambiano le cose, in effetti sì, è un disco che fu sorprendente, perché nel 92 l'internet non c'era e quindi non c'erano notizie che giravano. A un certo punto su Rockerilla o su Rumore, non mi ricordo, una di queste riviste qua, c'era un quadratino 5x5 con la copertina del disco e è scritto sotto in uscita per Target, che è l'etichetta che lo ha pubblicato, e eravamo tutti sorpresi perché era evidentemente lui. Tutti sapevano che Fausto si chiamava Fausto Rossi, però appunto non appariva più il nick iniziale. E poi erano passati tanti anni, era lui evidentemente, perché nella copertina c'era appunto, come dicevi tu, anche una fotografia con addirittura che ritraeva anche la copertina del vecchio Giacusa Amore Mio, e quindi era evidentemente lui. E poi l'abbiamo comprato, l'abbiamo messo sul gira CD ed era una cosa completamente diversa da quello che ci si aspettava. Musica elettronica molto liquida, molto influenzata dall'elettronica giapponese di Yellow Magic Orchestra, Sakamoto, dalle meditazioni orientali, da tutta una serie di cose, con testi brevissimi, molto poetici, in italiano, in inglese, perché poi lui ha sempre usato entrambe le lingue con indifferenza, e con questa voce molto presente, registrata. Poi ho scoperto da lui che per ottenere questo effetto qui, che sembra semplicemente una voce molto asciutta, senza effetti, in realtà di effetti ce ne sono tanti, ma sono messi lì per ottenere questo effetto molto presente, con la base, il playback elettronico fatto appunto con Max, che sta un pochettino indietro, e questa voce molto presente, asciutta davanti, che sorprese, perché poi lui col suo vocione New Wave ci aveva abituato a ben altre cose, insomma, per cui fu sconvolgente, un arrivo discografico assolutamente sconvolgente. Siete sempre all'ascolto di This is not an exit, e questi suoni sintetici, che ci crediate o no, sono del 1992 e sono suoni italianissimi, nel senso che sono fatti in uno studio in casa. Poi la cosa che mi sorprendeva ascoltando questi suoni, leggendo anche il racconto di Gioiello nel suo libro della vita di Fausto Rossi, di quello che aveva fatto anche per arrivare a questo libro, insomma, cambiano i tempi, cambia Milano, cambia l'Italia, appunto cambiano le cose. Magari Fausto si era anche accorto, aveva introiettato tutto ciò, era passato dal processo creativo di gruppo, che è quello tipico anche di un cantautore che si avvale di arrangiatori o comunque di collaboratori esterni, o comunque aveva un suo gruppo, si chiude in casa, si studia un software che per allora era pionieristico, perlomeno in Italia, e fa questi suoni in totale solitudine. Cosa pensi che gli abbia portato questa chiusura, dopo anni di silenzio peraltro? Ma lui sostiene che la sua ricerca nella computer music è una cosa che arrivava da lontano, e in effetti qualche anno prima lui aveva già fatto un esperimento di musica concreta che negli anni primi del secolo scorso si chiamava musica elettronica da noi in Italia, anche se in realtà il concetto era diverso da quello che intendiamo oggi per musica elettronica. Significa mettere insieme i rumori ambientali e fare una sorta di musica del rumore. La musica concreta era proprio basata, la musica concreta e quella acusmatica erano basate proprio sull'assemblaggio dei rumori ambientali messi insieme in modo tale che creino in qualche maniera un suono, che ovviamente è diverso dal concetto di musica tonale, non ci sono note, però comunque crea qualcosa. E lui fece questo Out Now nel 1982, che un po' spezzò il suo primo periodo, chiamiamolo pop, prima di fare il disco della Ricordi di cui parlavamo prima. Fece questo Out Now in totale autonomia, creando all'uopo un'etichetta discografica che si chiamava FG Records, stava per Fausto e Guido era Guido Carota, suo collaboratore storico, e fecero questa etichetta per pubblicare questo disco in 1000 copie, che era una cosa che era abbastanza strana per l'epoca. Gli anni del disco indipendente, cioè delle etichette indipendenti, quelle che facevano le stampe in 1000 copie, venne dopo. In quegli anni lì le etichette indipendenti erano ancora legate, erano comunque più satelliti delle major, quindi c'erano le etichette, diciamo, indipendenti che avevano una gestione propria, ma erano appoggiate alle major. Questo disco invece era completamente indipendente, su ovviamente modello di altrettante etichette straniere, ma in Italia un po' non c'era. E lui fece questo esperimento di musica concreta che poi ha dimostrato di aver sempre portato avanti, perché nei suoi dischi c'era comunque sempre qualche elemento di concreto. Anche nei dischi successivi ci metteva dei suoni, dei rumori, dicevamo il Fairlight, sorta di primo campionatore, eccetera. Cambiano le cose, arrivò dopo un suo percorso fatto con la musica computer music. Negli anni, primi anni 90, era un pochettino diverso da adesso. Adesso ci sono dei musicisti che vanno sul palco con laptop e fanno i concerti così. Nel 92 non c'era, tant'è che credo che Fausto non fece neanche un concerto di supporto di Cambiano le cose. Però fece questo esperimento musicale che lui sostiene fosse il frutto di un percorso fatto suo personale sullo studio della musica elettronica, del computer, dei software, eccetera. E l'ha abbandonata, diciamo, non proprio quasi subito, però fatto già dall'erba, sì, fatto questo esperimento qua. Lui non era e non è uno che insiste sulle cose. Lui ha un progetto, lo porta a termine, poi ne comincia un altro. Lui, dopo la scorpacciata di computer music che aveva fatto con Cambiano le cose, qualche anno dopo, perché passano 4 anni comunque ancora, ha fatto un disco di musica rock blues con una formazione classica: basso, batteria, chitarra, l'organo, quindi neanche una tastiera elettronica, proprio l'organo Hammond, l'armonica, è un suono così molto, molto diretto e puro, che è quello che si sente nel disco L'erba. che è un disco, diciamo, che in generale è abbastanza considerato come uno dei suoi più importanti, perché esce finalmente la sua voce vera, nel senso che ha fatto un disco di musica pop, tutto sommato, perché è un disco di canzoni, quindi molto più fruibile di quelle che erano nel disco precedente, e comunque è completamente diverso ancora una volta, insomma, nel senso che ci ha messo la chitarra elettrica, i testi tutti in italiano, a parte una cover di John Cale che ha messo in coda. Un personaggio, sì, che non sta a guardare, cioè che non ha voglia di stare a guardare quello che gli succede intorno, e che gli ha causato anche qualche problema, nel senso che, per esempio, L'Erba, lui quando lo fece si rese conto di aver fatto un discone. Quindi lui aveva un contratto con quella Target, che era comunque un'etichetta piccola, una satellite prima della EMI e poi non mi ricordo della Polygram, mi pare, ma potrei dire una sciocchezza, che era comunque un'etichetta piccola. Si rese conto di avere un discone e disse: no, vabbè, ci provo. Tornò a Canossa e andò dalla Caselli, che nel frattempo aveva preso in mano la Sugar e aveva fatto Bocelli, aveva fatto gli Avion Travel, aveva fatto successi internazionali, Elisa, e gli dice: io c'ho sto discone, torno dalla Caselli. La Caselli piacque da morire, solo che la Caselli aveva la mentalità della major, quindi diceva: questo disco è stupendo, ma però me lo devi un po' edulcorare. Certi testi, le parole cazzo non si possono sentire in un disco della Sugar. E lui dice: vabbè, grazie, riprese il suo disco e se ne andò, e lo pubblicò poi con la Target. Oh, Beh, i suoni sono molto più rarefatti e anche le parole si erano molto diradate, come se magari anche Fausto Rossi stesso avesse anche perso un po' di fiducia nei testi che scriveva, e già non è che erano vagamente ermetici quando si chiamava ancora Fausto. In questo disco si erano addirittura rarefatti, c'era molta musica e le parole erano sì, oltre molto tutto, più rarefatte. Nella copertina del disco appaiono i testi e sono scritti, cioè, impaginati in un modo che fa comprendere il modo in cui sono nati. C'hanno tutti dei puntini di sospensione prima e dopo, come se fossero frammenti di cose più ampie che lui aveva scritto e che ha utilizzato come liriche per questo disco, che in realtà ha qualche vago sentore di concept, perché è un po' molto lineare, a parte un pezzo che è molto strano e molto diverso dal resto e che ricorda le cose precedenti, che si chiama Morbide Macchine, che è proprio un pezzo pop con il testo scritto da Laura Valente, che in quegli anni lì era la cantante dei Mattia Bazzar, e perché lo doveva dare a Rosalinda Celentano, che ci stava cercando pezzi per fare un disco. Lui scrisse questa cosa, collaborò Laura Valente, registrò il provino, poi non se ne fece niente, non so perché, e lui lo inserì in questo disco ed è una sorta di Mosca Bianca, perché è un pezzo tonale pop proprio, no? In mezzo invece a tutte queste altre sonorità. Però i testi sì, se guardi la copertina, adesso siamo in radio e non si può vedere, però voi che siete qua lo vedete, sono scritti proprio così, c'hanno i puntini, sono proprio dei frammenti di cose che probabilmente lui aveva, cioè che fanno parte probabilmente di qualcosa di un po' più ampio. Sembra quasi che abbia campionato se stesso, sì, oltre che i suoni. Sì, sì, ma è vero, probabilmente. Poi lui è uno che ama molto lavorare in condizioni di lavoro. Cioè a me è capitato qualche volta di sentirlo al telefono e lui mi dice sto lavorando. E lui, per lui star lavorando vuol dire concentrarsi fortemente su una cosa, per fare l'erba e exit, che sono un po', io li chiamo, cioè per me sono una sorta di volume 1 e volume 2 dello stesso concept, per intenderci. Per fare l'erba lui si isolò a Montevecchia, in campagna, in una casa isolata dove c'era lui da solo, e scrisse questa cosa, scrisse un pezzo che si chiama Blues, che chiude Exit, disco del 96 mi pare, io mi perdo con le date, ormai c'ho un'età. Comunque lui scrisse questo pezzo che dura un quarto d'ora ed è una lunghissima invettiva recitata contro chiunque, contro la scuola, contro la politica, contro la religione, la chiesa, contro gli esseri umani, i media, qualsiasi cosa, lui l'ha buttata giù così. E quando gli abbiamo chiesto, lui dice ma ci avrò messo 20 minuti a scriverla, e si capisce. Lui dice se tu guardi appena di sbagli, di errori di punteggiatura, di consecutio sbagliate, ho provato a metterle a posto ma perdeva il senso, e quindi l'ho lasciata così. Ed è un pezzo formidabile, perché ancora una volta alla fine di un disco rock lui ci ha messo questo pezzo, l'ha chiamato blues e non ha niente a che vedere col 12 bar della musica tradizionale nera, non è un blues per intenderci. È un lungo recitato che lui fa su una base di chitarra di Pierluigi Ferrari, che è il chitarrista in quell'occasione nel disco. E è comunque uno che entra nei suoi lavori, in particolare da Cambiano le cose, che si chiama così non a caso, in poi. Perché prima appunto aveva dei legami con le major, lui racconta a volte degli aneddoti buffissimi di quando lavorava agli studi della CGD, e dice non ti potevi assentare un momento, perché andavi fuori a fumare una sigaretta, rientravi e ti dicevano hai sentito Fausto, ci ho messo questo bello tastiera, un mellotron stupendo, non ti piace? E lui dice no, volevo fare una cosa new wave, mi mettete il mellotron che non mi piace, e rimaneva ovviamente il mellotron perché non era lui a decidere. E invece poi lui, quando ha cominciato a fare le cose di testa sua, le faceva proprio in questo modo qua, si tuffa completamente nel progetto e si sente, nel senso che c'è dietro il suo vissuto, la voce è la sua. Thank you. Beh, ancora This is not an exit a Radio Città del Capo, sempre in compagnia di Gioiello Triolo e del suo libro che si chiama Dentro questi specchi e parla di Fausto Rossi. E abbiamo parlato un po' di, appunto, di, delle vicissitudini di Fausto in questi 35 anni. Perché il titolo a sto punto? Bah, perché è un verso di una sua famosa canzone, cioè è una parte di un testo di una sua famosa canzone e che mi sembrava, a dire la verità, guarda, te la devo dire tutta, il titolo non l'ho scelto io, o meglio, mi è piaciuto moltissimo e ho deciso di usare questo, che come dicevo è il verso di una canzone, perché ho chiesto a Matteo Bibianchi di scrivere la prefazione. E lui, quando me l'ha mandata, la prefazione l'ha intitolata Dentro questi specchi, perché poi nella prefazione lui parla del suo ricordo giovanile di Fausto Rossi, di Faustò, di quando lo vedeva alla TV, appunto c'è quella famosa scena di Faustò che all'Arena di Verona, durante uno spettacolo, anziché fare il labiale della canzone, quindi di seguire il playback, fa un atto rivoluzionario e si siede sul pianoforte, si siede in posizione di lotto e mangia una mela mentre il playback va da solo. Una cosa che non è piaciuta a nessuno, né ai discografici che stavano in promozione col disco, né alla Rai che aveva prodotto la trasmissione, e che però è stata talmente forte che 30 anni dopo, 35 anni dopo, siamo ancora qui che ne parliamo. E appunto Matteo Bibianchi parla del suo rapporto con Fausto Rossi, eccetera, e ha chiamato questa cosa Dentro questi specchi. Dico, ma è un titolo bellissimo, perché poi oltretutto c'era anche questa idea di mettere in copertina il primo e l'ultimo disco, le immagini del primo e dell'ultimo disco che si somigliano molto, come se fosse uno specchio, un giovane Faustò che si specchia con un Fausto Rossi di oggi, insomma. E quindi ci stava, poi appunto è una citazione, quindi diciamo che il libro è uscito da qualche settimana, l'editore è Crack, che è un piccolo editore di Ancona che fa delle cose molto interessanti. che si trova dappertutto. Va bene, quindi invitiamo tutti quanti interessati alla vita di Fausto Rossi ad acquistarlo. Ci sono anche dei QR codes per scaricare delle cover, giusto? Sì, sì, questo mi riporta alla nascita del progetto, che nasce prima come tribute album, che avevo fatto appunto nel 2008, invitando un po' di giovani band indipendenti a fare delle cover di Fausto per fare un tribute da mettere in free download. E da quello poi c'è stato l'interessamento di un editore, che poi l'editore è cambiato, non conta niente, però l'idea di farne un libro nasce proprio da questo tribute album, che era appunto in download. Inizialmente volevamo fare un libro con il CD allegato, ma poi ci sono dei costi, non è più epoca, ci sono dei costi assurdi per produrre una cosa del genere. Abbiamo detto vabbè, siamo nell'epoca della musica liquida, invece che il CD allegato mettiamo i QR code, e ci sono in fondo nelle ultime pagine, ci sono i QR code per scaricare gratuitamente tutti i pezzi, che sono una ventina di pezzi. C'è Umberto Palazzo, c'è Fabrizio Tavernelli, ci sono gli Ego Kid, i Roulette Cinese, mille gruppi indipendenti, una ventina di gruppi indipendenti italiani che hanno rifatto a loro modo un pezzo di Fausto Rossi o Fausto. Va bene, grazie a Gioiello Triolo. Ricordo anche il suo blog Fard Rock, dico sì, bene? Sì, dici bene. Per chi volesse approfondire, ricordiamo anche il nostro, thisisnotanexit.altervista.org, non lo ricordiamo mai, e a sabato prossimo, sempre alle 15.40, dopo il giornale radio. Ciao a tutti. Pump up the volume.